Che cosa importa se dentro uno stadio con 100.000 persone, dove le grida e l'odore dell'erba del prato investono come il ricordo di una periferia, o è soltanto un cortile, una strada di Roma infuocata d'estate con due zaini per porta lontano dal mare. Il gioco mi avvince e devo giocare come se niente al mondo valesse quanto l'emozione di correre senza un'età, inventando le traiettorie del mio pallone come fossero parole che non riesco a dire. Ho una rabbia che è rimasta a lungo dentro il cuore, come fossero parole che non riesco a dire. Ho una rabbia che è rimasta a lungo dentro il cuore. Splendido come sognavo, da non sembrarmi più vero. Gli stadi sono dei templi dove basta un momento per perdersi e sentirsi solo. Incredibilmente, finché il gioco comincia e tutto quanto scompare e non resta nient'altro che rubare il pallone e andare a segnare. Il gioco è affrontare il tempo, provare a ingannarlo prima che ci sorprenda, perdenti senza aver provato. Sentire per mille volte il dolore della sconfitta, per la gloria di un giorno, per la gioia di un istante che forse non vedrò. Alla fine cosa resta? Quel che conta è aver giocato. Per la gioia di un istante che forse non vedrò, alla fine cosa resta? Quel che conta è aver giocato.